E siamo qua per parlare di fumettologia. Di fumettologia, non dei camminatori. Di fumettomania, forse. Fumettomania. O di fumetti. Fumettomania. O di fumetti. Di cui io sono completamente incompetente, lo sappiatelo. Infatti ti ho chiamato apposta. Stasera mi ha chiamato apposta perché invece sa che io sono un'avida lettrice, io sono una di quelle persone per le quali voi pubblicate e scrivete. Però adesso magari facciamo un attimo di presentazione un po' più bellina. Brava. Per i nostri ascoltatori che non magari sanno, quelli magari un po' distratti, distratti che non leggono fumetti dalla mattina alla sera, ma secondo me non ci sono, cioè non esiste ascoltatore di Radio Città Fujiko che non legga fumetti dalla mattina alla sera. A parte me. A parte te, allora io prendo. Infatti, io proporrei di togliere la conduzione Pasquini. In effetti potrebbe. Sono un po' a rischio non solo per la conduzione, ma anche per tante altre cose. Ma di questo possiamo parlarne dopo l'estate. Esatto. Dopo l'estate. Nella trasmissione numero 500. Esatto. Allora io mi sono scaricata due curriculum a caso perché non ho trovato un sito internet di Enrico Fornaroli. Ma io sono un boomer e sono legato ancora alla carta. E quindi alla carta. Capito. Comunque mi sono reperita questo, poi dopo tu correggerai se c'è qualcosa da mettere a posto. Enrico Fornaroli, fumettista, docente, redattore e curatore italiano. E vabbè, adesso lasciamo stare il cursus studiorum. Il suo nome è conosciuto nel, che comunque è molto lungo e lo tralascio per questo. Il suo nome è conosciuto nel mondo dei fumetti italiani, è accostato a titoli famosi come Dylan Dog, Diabolik, Ratman e molte altre storie inchiostrate. E diciamo anche che Enrico Fornaroli è anche docente all'Accademia di Belle Arti di Bologna, di cui è stato anche direttore, e devo dire l'unico direttore su cui io non ho alcuna lamentela, perché sono stati gli unici anni in cui io proprio non c'ero in Accademia, né come studente né come docente. Ho per saltato, e quindi per me è il miglior direttore, per forza. Certo, ma anche tra le migliori conduttrici che appunto non hanno incrociato. Io invece devo dire che il miglior direttore in assoluto è stato Panzacchi. Però che io proprio no, con il quale sono d'accordo, con il quale condivido il nome proprio, essendo Enrico anche lui. Sono stato il secondo Enrico nella storia dell'Accademia. Poi di il fatto Belle che lui fosse direttore nel 1860 è un dettaglio. Certa età, non sapevo. Ah no, ma io non ho, appunto, come con te, non ho avuto a che fare con quel direttore. Con tutti gli altri che sono venuti dopo, invece sì. Non proprio, ma insomma, fingiamo indifferenza e ascoltiamoci Marco Roma, che alle 7:37 di stamattina ci ha mandato questo messaggio. Buongiorno, sta splendendo sul vostro cuore, forse nascerà un fiore così bello che non l'avevi mai visto mai, perché se ascolti noi tu potrai immaginare quell'arcobaleno che hai visto in cielo, potrai vederlo nel tuo cuore. Da Marco Roma, buongiorno. E buongiorno anche a te, Marco. Cioè, adesso io riprendo subito la parola perché tu mi hai interrotto come al solito con le tue maniere molto garbate. Esatto. E mi hai impedito di dire anche due note di bio su Otto Gabos. Okay. Quindi non c'è par condicio, però allora breve storia di Otto Gabos tratta dal suo sito, quindi mi fido che sia tutto giusto e corretto. Breve storia di Otto Gabos: nasce a Cagliari, non diciamo quando che non sta bene, vive e lavora a Bologna, disegnatore e fumettista, autore però, perché poi se no sembra... No? Sì, se no non si finisce più. Dall'esordio nel 1985, per tempi supplementari, rivista del gruppo Frigidaire, ha fatto parte dei principali movimenti del fumetto collaborando con svariate riviste, tra cui Nova Express, Dolce Vita, Cyborg, di cui è stato anche redattore, Mondo Naif e Fuego, di cui è stato cofondatore, e ha pubblicato tanti romanzi grafici, e stasera noi parleremo proprio di uno di questi, che io molto felice ho ricevuto in anteprima oggi, però non l'ho letto tutto perché non lo voglio leggere online, perché lo voglio possedere proprio, lo acquisterò e lo leggerò. E si chiama I Camminatori, quindi io e Pasquini siamo venuti in ciabatte oggi. Siamo venuti in ciabatte appositamente perché sapevamo... A sfregio. E che cos'è questo Camminatore? Perché è una ristampa, no? No, è una nuova edizione. Di una vecchia edizione. Sì, allora, Camminatori è uscito a metà degli anni 90 per quella rivista che avevamo fondato con i K-Boys, Vanna Vinci, Andrea Cardi, Davide Toffolo, Giovanni Mattioli, e magari perdo pure qualche altro, è una rivista che era uscita, una miniserie di tre numeri con la Star Comics, che voleva raccontare un po' Bologna in diretta, dal punto di vista di noi autori, raccontare di giovani, di studenti, di ventenni, unendo realismo magico, unendo il quotidiano, unendo l'avventura e un approccio autoriale. I Camminatori appunto faceva parte di queste storie che sono uscite prima puntate e poi dopo sono state raccolte in volume, e in comune avevamo il raccontare in diretta la Bologna in cui vivevamo. Non era una cosa abbastanza comune ai tempi, perché si parla appunto di una trentina d'anni fa. Ah, ecco, infatti stavo appunto cercando adesso di collocare cronologicamente, quindi una trentina d'anni fa. Iniziamo a lavorarci nel 95, poi 95. Quando io e te poi non eravamo ancora nati. Esattamente, io sono un dinosauro, ho 2000 anni. Infatti mi ricordo che però quando avete iniziato con i K, tu avevi già l'idea, ma un giorno ci sarà un Stefano Pasquini che mi leggerà, questo è stato molto bello. Insomma. Lo dedichiamo a lui. E cosa racconta? Racconta un po' la vita dei fuorisede. Ecco, volevo raccontare come trama sotterranea la vita dei fuorisede, anche di cui io ho fatto parte, e anche qui il mio collega Enrico, che tendenzialmente vivono i fuorisede una Bologna parallela, lo vivevano allora, penso che almeno in certa percentuale sia anche adesso, nel senso che si frequenta altri luoghi, altri locali, altre condizioni, altro sistema di vita, altri appartamenti, non si vive coi genitori ma si vive da soli, quindi tutta una serie di dinamiche che chi nasce e cresce nella propria città non ha modo di affrontare. Quindi questo sicuramente era un sottotesto. Poi l'altro vuole unire storie di mistero, d'avventura e sentimento, quindi è una storia anche sentimentale, che io sono sempre stato molto vicino, come certi tipi di racconti, alle soap opera, alle commedie. Mi piace molto partire dalle storie parlando dei personaggi, quindi tutte le mie storie nascono lavorando prima sui personaggi, poi li metto insieme e vediamo cosa succede. Però in questo caso invece c'era un'idea di base, bisogna tornare quando ero ragazzino all'uscita delle scuole medie a Cagliari con un mio amico, a questi giorni noiosissimi, non ne voglio tornare a casa fra la fine della scuola e l'ora di pranzo, quindi deambuli in giro, e ci siamo messi a seguire le persone. Ah, che bel gioco! Il gioco è seguire le persone, queste persone, anch'io. Anche tu. Sì, sì. Le nostre persone che seguivamo però avevano una caratteristica in comune. Tutti avevano una valigetta, ma nemmeno quella 24 ore, quelle borse un po' da prof, un po' scalcagnate di cuoio, certo, così, che pesano. La borsa del professore. Il loden col piegone, tipo quello di Mario Monti che poi ha portato fino alla fine, e occhiali da sole scuri. Sembra il ritratto di mio padre questo, che hai fatto. Quindi avremmo magari seguito anche tuo babbo, così. Seguendo queste persone, così per gioco, è venuta l'idea, la primissima idea dei Camminatori. Poi questa l'ho trasferita nel contesto bolognese e pian piano è venuta fuori questo racconto, che si svolge in una Bologna sotterranea, Bologna notturna, Bologna altra, quindi c'è il mistero. Quindi ecco, infatti mi sembrava che ci fosse anche un po' di mistero da quello che ho capito, perché poi io mi sono letta le prime, diciamo, pagine. Le prime 50 pagine, no? Qui siamo a metà ormai. No, neanche, sono un po' forse le prime 20. E io ho guardato la copertina. Tu hai guardato la copertina, io ho letto di anche quale edizione? Dell'ultima. L'aggiornamento in che cosa consiste? Ecco, questa qua è una bella domanda. Allora, quando ho parlato di non di ristampa, correggendo Stefano, ma c'è la nuova edizione, volevo fare una cosa molto diversa. Innanzitutto c'era la grande domanda, prendendo un'opera realizzata 30 anni prima, quasi, un po' meno, ha ancora senso portarla avanti? E io come autore, come mi relaziono a quest'opera? Quindi è iniziato prima un bel esame di coscienza, quindi ho riletto il libro da lettore e ho detto ma sì, c'è ancora il suo mordente. Poi dopodiché sono entrato in campo come autore. E quindi come tale cosa ho fatto? Ho cominciato a correggere tutte le cose che non mi piacevano dell'altra volta, perché ah, che bello, allora bisognerebbe fare una lettura proprio comparata. Infatti penso magari che farò le cose che piacciono, che non piacevano a te, magari qualcuno piacciono. Non farò, penso, una diretta a Facebook, sto programmando, in cui metto le due versioni diverse, oppure come facciamo caccia all'errore, sì. Cioè, faremo una cosa del genere, però ne parlerò un po'. Quindi ho iniziato a correggere le cose che proprio a me non piacevano. Queste qua sono fisime dell'autore, magari sono cose che nota solo l'autore, gli altri non noteranno mai, ma un occhio, una mano, una faccia, una quindi proprio... non nella storia ma proprio nel disegno. Nel disegno, quindi ho fatto un'operazione proprio capillare. Ma è bellissima questa cosa, ma è un'operazione concettuale. Concettuale, capillare, poi c'era da restaurare un po' di disegni che con tempo erano un po' deteriorati e poi ne ho approfittato per rivedere i testi, perché i testi scritti un po' di tempo fa, io sono cambiato, il mondo è cambiato, quindi allora c'è stato un po' questo rapporto dialettico su quello che avevo scritto, quindi sono intervenuto, li ho riscritti tutti, ribattuti, corretti, modificato, limato, buttato via. Il senso della storia è rimasto quello, però alla fine è un po' come rifare una traduzione dopo diverso tempo che lo rivede. Infine ho aggiunto delle pagine nuove e poi ho messo la bicromia, ossia una colorazione soltanto con un colore che nella versione numero 1 non c'era. Che è una sfumatura petrolio forse. Ne ho usato diverse qua, ho usato qua addirittura abbiamo fatto con 99-70 la piccola etichetta, che la camicia di Otto Gabus è in tinta, con tinta. Cioè, l'hai fatto apposta, esatto, è esattamente della stessa tonalità della bicromia che ha devo fare pandan, esatto. Certo. Abbiamo fatto due versioni, ma è un po' che si veste di quel colore lì, sì, da quando è uscita è un camminatore. Camminatore, mi sto immedesimando. Abbiamo fatto due versioni, tiratura limitata, 200 copie autografate e numerate, due versioni con diverso tipo di colorazione, una tradizionale con questi toni qua, il petrolio, il verdino più vicini al mio umore classico, e poi invece un'altra versione con colori decisamente flash, quindi colori molto sparati. Ogni capitolo è un colore, diverso. Quindi sono tre capitoli, ma tre molto, molto forti, molto, devo dire, due versioni molto interessanti. E quindi questo è stato poi tutta una serie di rielaborazioni che era da tempo che volevo fare, per cui alla fine, come è venuto fuori il libro, sono contento, era come ce l'avevo in mente. E quindi la cosa da dire dal punto di vista commerciale: non si trova in libreria, non si trova in fumetteria, non si trova su Amazon, ma si trova solo sul sito www.9970.it. Bisogna comprarlo lì. Hai capito. Però viene spedito il cartaceo. Sì, viene spedito il cartaceo. Questo mi conforta. Viene spedito il cartaceo numerato, firmato. Oppure un podcast dove io racconto. Esatto. La storia. Neanche da Alessandro Distribuzioni. perché di fianco a me, intanto, mentre Otto Gabus parlava dei camminatori, io avevo di fianco Enrico Fornaroli, che è sul fronte, se capisco bene, tu sei più sul fronte della critica o sei anche disegnatore, fumettista? No, diciamo che io ho un trascorso che però non posso rivelare oggi qui. Anche perché mi stanno chiedendo in privato se è qui a parlare della sua candidatura. Assolutamente, io sono un camminatore fuori sede, e questo voglio dire. No, e aggiungo una cosa, che ho avuto la fortuna di leggere la storia nel lontano 95 quando uscì su Mondo Naif, e l'ho recuperata dopo che ovviamente ho avuto la nuova edizione, la nuova versione di Otto, e devo dire che funziona benissimo il ridisegnare, cioè l'intervento che Otto ha fatto, perché effettivamente si capisce che è l'intervento di un autore, ma devo riconoscere che gli elementi centrali della storia, i personaggi, l'originalità appunto di quell'operazione, che poi riguardava, devo dire, era molto nuova per gli anni di tutto Mondo Naif. Per la prima volta si incominciava a cercare di raccontare le storie, diciamo, dei luoghi in cui si viveva, no? Perché tutta la redazione, cioè, di quella rivista e di quella casa editrice, come diceva Otto, erano non fuori sede, ma comunque si cercava di raccontare la Bologna degli anni 90, e la chiave che in particolare ha scelto Otto è stata, come dire, di un'anticipazione a un certo punto di vista rispetto a quello che sarà poi il seguito della narrazione del graphic novel, ma al tempo stesso bisogna riconoscere che è una storia piacevolissima da leggere anche oggi, con un elemento che secondo me è senza tempo, ed è quello appunto dei camminatori, cioè l'idea di questi personaggi, non riveliamo nulla e non c'è nulla secondo me da anticipare, ma appunto queste figure che diventano un po' il pretesto per i vari protagonisti del romanzo grafico, che costruiscono questo intreccio misterioso, fantastico, notturno, che ricorda, questo devo dire è una cosa che mi ha sempre molto appassionato, ricorda le figure inquietanti di Mortzinger di Alberto Breccia, che erano un po', insomma, il forza, esatto, queste figure, no, di un tributo di creato, esatto, necessario. Posso interrompervi? Mandiamo magari un pezzettino. Vuoi, sì, mandare un pezzettino? Un pezzo che è uscito stamattina su Instagram. Si chiama Atto Primo. E la band, che in realtà è una one man band, è uno che si chiama Copes. Scritto Copes, C-O-P-E-S. Me lo segno. Segnatelo. Copes. Non dura neanche tantissimo, per cui non vi interrompo per più di tanto. Volevo giusto ringraziare Giuli Perini che me l'ha mandato stamattina. Eccolo qua. That boy D, vamos pa' la banca. Se non ti piaccio, metto lenti e guardo quanto cazzo mi frega. Noi facevamo in bici la spesa, so che ora non sembra. L'acqua sulla canna, mamma non la alzo. Intendo la cassa, ero ancora basso. E magro, e scarso, che cazzo. Non ce la faccio. Ho i valori di Camelot, sogni del Camerun, neve di Camura, coca nel Camel, tuo avatar Cameron, M nell'apero, il troie nell'atrio, entro il vestiario. Fuori fa freddo, demoni a letto, gana in cassetto, non mi spavento, usa me stesso che ti proteggo. Non ho coperta, ma una copesta, aspetta. Da dentro Kurama, chi mi curava, chi mura le braccia, chi mi cullava, ci son per chi ama. Non ho comare, metto la collana, non ho un collare, disegno lo schema, dovrei allenare. Disegno lo stemma delle forze armate, mio bro non tentenna, ma steppa come fosse Edward nel quarto finale. Per noi non c'è pace. Se fotti Copes è lui che lo vuole, brother. Come le avventure Tom Sawyer, brother. Non ho baby nel nome, ricordo al sose, brother. Son duro a morire, ma mica sbirro. Come Danny Glover, brother. Stringo un fratello, lo coccolo. Se sembra da homo, allora lo sono. Drammi come dono, più danni di Goku nel gioco. Quello è grosso. Forse si scalda, è probabile che ci do fuoco. Focus, corro, Lotus. Nona, vuoto. On God, Colflo. Dabrock, io non torno. Finisce così. Siamo là, noi ci eravamo, sì, già distratti. Tu eravate cuffie, già un po' distratti. Stavamo già in svacco totale, esatto, come nostro, ecco, solito, capito? No, volevo dirvi che, come non detto, non è l'ultima puntata prima dell'estate, ma è la penultima puntata prima dell'estate, perché lunedì prossimo ci saremo di nuovo. Per cui i nostri ascoltatori, allora, che non ci stavano, ascoltando, sappiate che potrete non ascoltarci di nuovo lunedì prossimo. Per la 498esima puntata, però. Che è un po' pericolosa, perché si avvicina alla 500esima. No, infatti, secondo me, a quel punto dovremmo fare prima dell'estate anche la 499, così poi si riapre con la 500. Col botto, proprio. Addirittura. Ok. Pensavo la 499 di farla da solo a Ferragosto. Che giorno è Ferragosto? Scusa. Ma Ferragosto mi collego a distanza, come facevamo anch'io durante il Covid. Sono in Valle d'Aosta, ma mi posso collegare a distanza. Puoi collegare, potete andare tutti su www.radiocittapugliese.com. Giovedì è un giovedissimo, un ponte radio. Ponte radio, per il ponte di Ferragosto. Comunque sappiate, appunto, che sul 333 180 94 94 potete mandare un messaggio ai nostri fantastici Fornaroli e Otto Gabos. E invece, se andate su www.radiocittafugico.it, se per caso state guidando, potete aprire l'iPad e continuare ad ascoltarci con una leggera differita. E dunque, adesso sta passando questo simpatico aereo che mi deconcentra un po', però io avevo una serie di... Ma è un aereo vero o un effetto sonoro? È un aereo vero, no, sembra fatto da Pasquini. Sembra sempre che stia per partire. È l'effetto Fujiko. Ha preso accordi. Sembra sempre che stia per partire Get Back dei Beatles, invece no, sono dei Ryanair e sono qui in via Zanardi 369. Cioè, lui prende una percentuale dall'aeroporto Marconi di Bologna, perché così noi lo citiamo tutte le volte, facciamo anche questa pubblicità. E poi lui è bravo a riconoscere dal rombo dell'aereo anche qui. che compagnia. Assolutamente. No, in realtà c'è un trucco. Io ho il vetro tra me e voi che però riflette quello che vedo dietro, che è la finestra, per cui li vedo passare e mi accorgo che sono dei Ryanair. Hai svelato ho svelato il trucco. No, è che non capisco questi rumorini di sottofondo che ci sono oggi, però va bene lo stesso. Beh, tanto... è un simpatico sottofondo così. No, non ho capito se l'effetto grillo. Esatto. Un po' il grillo. No, la volta scorsa avevamo il ventilatore che faceva un gran casino di là. Io qui sono fermissima, però no, però se avete caldo lo potete neanch'io, ecco, anche a parlare di queste cose assolutamente così venale. Proprio cazzeggio. Torniamo a parlare dei camminatori. Ecco, a parlare dei io volevo dire questa cosa perché volevo suggerire che è molto divertente andare sul sito di Otto Gabos, perché c'è scritto tutto una intro sui suoi esordi, le passioni, ci sono anche delle come si chiamano quelle liste, Le playlist, scusa, poveretto, mettere delle nuove. Sì, non, cioè io ormai sono vetusta e io a causa di ciò l'altra sera, cioè in famiglia, cioè a causa tua, per colpa tua, diciamolo proprio questo, per colpa tua ci siamo guardati il primo episodio di Il Segno del Comando su Rai Play. No, per merito mio. Infatti. No, cioè ho cioè, nel senso che è stata una persita di adesso tempo. A me è piaciuto molto, però diciamo che è stata una scelta avvardata, piuttosto originale rispetto alle programmazioni che si possono seguire oggi sui canali. Posso chiedere a questo punto, facciamo partire Nando Fiorini. Cioè io direi che non... din don. Ah, lo dovete fare voi, amore. Vabbè, no, era e finiva qua, scusate, io ero già no, di sicuro per la puntata 500 faremo tutta la sigla. Din don, amore. Aspetta che vado su YouTube a cercare 100 campane, 100 campane, dovrebbe essere 100 campane, se non fior metto fior male. Di musicisti e di allora voce. Il Segno del Comando sicuramente è stato una delle fonti di ispirazione dei camminatori, se non altro per questa condizione di doppio binario fantasmatico, non altro. Che Nel Segno del Comando è una di quelle storie in cui tutte le belle teorie di Todorov sul fantastico vengono messe in pratica. Quindi ero rimasto talmente impressionato ai tempi dell'università, quando ho studiato Todorov, ho applicato quello che vorrei metterlo in pratica. Quindi Camminatori è stato sicuramente uno dei momenti da cui ha attinto Il Segno del Comando. L'altro, un libro meraviglioso che mi aveva colpito quando era uscito, era Dio di illusioni di Donna Tartt, in inglese Secret History, un altro ambientato in un college nel Vermont. E questa sarà la lettura dell'estate. È un bel tomone quello. Un bel tomone. E quindi intanto c'erano tutti questi... Fa paura? No. Fa perdere la serenità? No, te lo leggi proprio. C'è inquietudine più che inquietudine. Da leggere d'estate perché è lungo, quindi quando magari hai un po' più tempo. Allora, te lo leggi. Eccolo qua. Eccoci qua. Stanotte siamo a chi hai stregato per il cuore. Siamo in un mondo estraneo a me. La vuoi sentire tutta? Fatta da loro, però. Fino al refrain. Lasciami sta visione per sperare. Dindo, dindo, amore. No, non cantate, si scontra, aiuto. 100 campane stanno a dire no, ma tu amore questa mio, mi mancava proprio, non la cantava neanche mia madre questa. Si mai lasciato ancora nullo di no, nullo di non parlare. Sei una donna o una strega, chissà, mi resta una... Hai capito, un gran pezzo. Ma è bellissimo, ti hanno scombussolato tutta la colonna sonora, ma finalmente Nino D'Angelo, spostati, capito? Alla grande. Questo sta a dimostrare che però, come dire, c'è una... Un... uno stacco anagrafico tra noi e Pasquini, perché appunto non ha, non è cresciuto no. con il segno del comando e i ragazzi di Padre Tobia, cioè, no, cioè questo sei master capito Pasquini, ci sentiamo giovani noi, no, esatto, siete giovani, devo invitarvi più spesso, siamo diventati di nuovo giovani artisti, esatto. Com'è? Che bello. Occhio che fra un po' parte la pubblicità di YouTube, per cui era un must degli anni 60. Non lo di, non parlare. Qua è indicato come pezzo del 2011, ma no, in realtà siamo primi anni 70, siamo primi anni 70 quando si era sceneggiato. Qualcosa mi dice che primi anni 70. Primi anni 70. Ok. Era con Ugo Pagliai, Carla Gravina. E Carla Gravina. Paola Tedesco, tutta questa. Ma è bellissimo favolo. Proprio la, cioè, immergersi in una struttura narrativa completamente diversa, forse opposta, confliggente. Tra l'altro lo scrittore era di Bologna, Giuseppe D'Agata. Sì. Era lo stesso che ha scritto Il medico della mutua con Alberto Sordi, e lui uno scrittore di Bologna. A livello di aneddoto c'è delizio. Fantastico. Ma noi adesso rivolgo a Enrico Fornaroli delle domande tecniche sul, diciamo, da critico del fumetto, perché ho letto nell'introduzione, non so se posso dirla questa cosa, chiedo a Togabus, fermami con dei versacci se mi inoltro in territori spinosi, c'è un'introduzione di Igort, no? Che credo non abbia bisogno di presentazioni, fondatore della Coconino Press, eccetera, eccetera, fumettista anche lui, e dice che si avvicinano al fumetto da due punti di vista diversi. E poi però lascia cadere l'argomento, non, cioè lo lascia così nella. Cioè lui e Otto Gabus. Esatto, quali sono questi punti di vista? Ti interrogo. Enrico, guarda, quali sono la diversità? Avrei bisogno di tutta la puntata, forse anche della 499 della 500. Beh, però oggi, cercherò. Oggi, se vogliamo, possiamo sforare di una mezz'oretta, sappiate, però, vabbè, perché non ci sono i pantottanti, hanno salutato la settimana scorsa. Felici gli ascoltatori. Il commento, come dire, autorevole e sibillino di Igort è difficile da interpretare, ma cercherò di farlo. Ovvero, il lavoro che sicuramente nei Camminatori in particolare, ma in generale anche nell'approccio che Otto ha rispetto a Igort, diciamo che c'è una minore attenzione a quella che è l'esotismo, no? Igort è un grandissimo narratore di storie che recuperano vicende, personaggi del passato, ma anche in luoghi lontani da noi, pensiamo, no? Al Giappone, alla Russia sovietica e quant'altro. Otto invece trova il mistero e cerca in qualche modo di accompagnarci in questo racconto, come nel caso dei Camminatori, parlando di Bologna, ma in realtà c'è una Bologna che risente molto, come prima raccontava, della sua origine cagliaritana. Cioè, in qualche modo il tema del fuorisede è sempre quello di vivere il luogo in cui ci siamo trasferiti, lo dico in prima persona perché siamo due fuorisedi che si sono conosciuti nei primi anni 80, appunto, e non si sono poi più lasciati, ecco. Una coppia di fatto, esatto. Di fatto. Ma in realtà è questa la condizione, porti sempre con te, no, il tuo luogo d'origine, la tua storia, no, il tuo vissuto, e diventa però perfettamente integrato con quello che è il nuovo vissuto, che è la nuova realtà, perché Bologna poi in realtà l'abbiamo vissuta e continuiamo a viverla, e Otto questo ha il vantaggio però di riuscire a inserirla anche nelle sue storie a fumetti, e questo per me è quello che ovviamente invidio moltissimo, perché io vivo, lui però mi racconta anche quello che vivo io. È bellissimo, questo è l'obiettivo, quindi obiettivo raggiunto, insomma, tutto all'insegna del Unheimlich, che è il perturbante, la parola chiave. Cominciate già a essere un po' troppo alti. Siamo come scivoliamo nell'alta cultura. Adesso devo andare a cercare qualcosa di bassissimo. Purtroppo ha già mandato Marco Roma, quindi quella ce la siamo giocata. Ahia, non dire così, che poi non ci mandano più i vocali. Non ho giocato la carta Beltanschaung perché mi sembrava così prematuro, però se vogliamo, però se vogliamo possiamo andare avanti. No, adesso provvedo subito ad abbassare io con dei commenti veramente da fumetto 2.0, cioè da neofita, perché invece io quando ho visto, io non, devo ammettere la mia ignoranza, non conoscevo la prima versione dei Camminatori, però adesso naturalmente mi documenterò e cercherò appunto di trovare le differenze. E, mi è venuto subito in mente un altro punto di riferimento sui fuorisede, che era Giorno di Andrea Pazienza, che è banale la Bibbia, Pazienza. Però io quando ho letto Giorno ero molto dispiaciuta, perché poi finisce lì, io mi aspettavo Giorno che andasse avanti, questo Giorno giorno dopo. E quindi invece in questo caso sono molto gratificata, perché arriva dopo, no, anni 90 e in qualche modo riprende un filo di chi vive la città da universitario, che forse sono i veri cittadini bolognesi, perché direi che il karma di Bologna è molto legato, no, a questo. Certo. Eh sì, nel tempo è sempre stato così. Noi, ad esempio, lavorando anche in Accademia di Belle Arti, chiaramente abbiamo un legame. Che Mario Rivelli insegna storia del fumetto e arte del fumetto, e Enrico Fornaroli scrittura creativa, narrazione per immagini, sistemi editoriali per l'arte. E storia del fumetto, forse quando quindi abbiamo a che fare quotidianamente con studenti, soprattutto con fuorisede, per cui alla fine questo filo rosso non si è mai interrotto. È bello vedere un po' come certe cose sono cambiate nel tempo, altre cose sono rimaste invece immutabili. Stavo facendo un po' mente locale. Alla fine la mia vita a Bologna è sempre gravitato, prima da studente, poi da insegnante, spinto a quella zona lì a cui sono particolarmente affezionato, nonostante tutto, sia tutta la zona di via Zamboni, Belle Arti, Traverse Limito, ossia la famosa zona del degrado, come viene sempre dipinta. Per me invece è la zona, assolutamente, proprio la zona invece dove succede tutto. E non si fa mai abbastanza per, appunto, per valorizzarlo. Intanto si parlava sempre di valorizziamo via Zamboni, via Belle Arti, facciamo questo e quello. Sinceramente non vedo una cipa, siamo sempre lì, al massimo c'è il bottiglione di Piazza Verdi. Anni fa però c'è stato delle belle rassegne musicali in Piazza Verdi, molto belle. Avevo addirittura visto Mark Stewart, cantante storico di New Wave, anche prima non è successo niente, pubblico civilissimo. Ci sono state anche qualcosa relative, se non mi ricordo male, al Festival di Repubblica, avevamo partecipato insieme, proprio parlando di Andrea Pazienza, esatto. Qualche anno fa era stato molto bello. Questo qua per quando dire, se si cambia il circuito d'uso, se si fanno delle iniziative, quella zona da degrado, così come è fatta, diventa invece un luogo di produzione. E quindi questo qua è una cosa che proprio è un mio pallino, ma io non sono un politico, quindi non faccio niente di tutto ciò. Quello che possiamo fare noi là come Accademia lo realizziamo. L'anno scorso quella lunga serie di eventi legati a riparazioni, abbiamo fatto tanta roba, che tanti eventi proprio là in zona. Uno l'abbiamo curato anch'io, un posto anche per te, usando proprio il podio per parlare. Il podio di Flavio Favelli. Esattamente, il podio di Favelli è stato bello. Poi abbiamo raccolto in diretta i disegni delle storie, poi abbiamo fatto una pubblicazione. Quello è stato proprio un giorno di festa, che poi dopo la pubblicazione l'abbiamo data ai passanti, alle persone che sono intervenute alla fine di tutto questo ciclo, per cui quello diventa una delle iniziative che andrebbero replicate per far vivere tutta la zona in una maniera che sia attiva e produttiva e non sempre questa tiritera del famoso degrado. Questo aereo che sentito è l'aereo delle 20:31, per cui siamo in ritardo di un minuto. Di un minuto. Cui pubblicità. Vi interrompo per fare questa cosa qua. Un modo nuovo per sperare. Non so che cosa sia questo. Un solo modo per sparire. Ah sì, no, non sta funzionando niente oggi. E poi avere per cui vi faccio sentire e non accorgersi Holden con Gioia negli occhi. Somiglia a morire. Non averti qui e non poter parlare quando voglio, quando sbaglio, quando mi acceca un abbaglio. Gioia negli occhi, alba senza rimpianti, è quello che sei. che in fondo trovarsi è stato come svegliarsi, adesso è come non svegliarsi più. Sentire tutto e non cadere giù. Io sono ancora qui, lo sai. Ti chiedo solamente di fermarti. È tutto vero, guarda, puoi vederci. Se vuoi, puoi prenderti cura di noi, e poi sarà un pensiero leggero e normale scoprire che poi in fondo la felicità noi ce l'avevamo già. Siete contenti che vi faccio sentire un po' di musica nuova che sembra vecchia? Questo è Holden con la gioia negli occhi. Ah, non Battisti. Eravamo no, convinti no, così che fosse Battisti. Invece no. Sono tornato indietro nel tempo. Hai visto? Beh, dopo Lando Fiorini, Holden. Ma esatto. Ci sta. Magari il terzo Holden pezzo. Holden but Golden. Ai ai ai ai ai. No, è che non mi funzionano tutte metà de, no, non mi funziona lo stacco dell'angolo della menzione. Come facciamo a farlo senza, ah, senza lo, so. Lo stacco? Non mi ricordo neanche più com'era, quindi non lo posso mimare. No, invece funziona, sì. Ok, ecco, l'abbiamo fatto esatto, no, no, perché non ho capito cosa è successo. Questo non gli piace, no, non gli piacciono un sacco di cose stasera. Parli al play da 5 minuti. Andate avanti voi con i camminatori. Se queste coxo spaziale, naturalmente. Io faccio una domanda seria. Sì, siamo, no, siamo tornati in onda. Prendi tempo, ok. Sì. Cioè, Chiara Pergola, decidi, fai una domanda seria. Faccio una domanda seria. Metto le cuffie. Metti le cuffie. Un'altra nota, sempre dalla preziosa introduzione di Igor, che a un certo punto ti fa quella che ai miei occhi di lettrice sembra una tirata d'orecchie. Non me la ricordo più qual è. E dice che però non citi Belfagore e Juliette Greco, che incarna i misteri di Parigi. Cioè, citi Il segno del comando, ma non. Ma perché erano, non c'entrava nulla qui. Ecco, spieghiamo a Igor. No, nel senso che qua è la storia molto italiana. E ai giovani ascoltatori di Radio. Per la cronaca, Belfagor era uno dei fetici della nostra infanzia. Quello lo sceneggiato francese. Sono rimasto un po' meraviglioso. Che quando l'ho visto per la prima volta da bambino, sembra che fossi in prima elementare o giù di lì, non dormivo la notte. È una di quelle cose che hanno segnato tutta un'intera generazione. L'ho rivisto più volte, siamo a livello di Segno del comando. A me era piaciuto quello con Sophie Marceau. Era bruttissimo. Tu lo guardavi per Sophie Marceau. Adesso mi alzo e lascio la trasmissione dopo questa dichiarazione di Pasquini. Non l'ho inserito ma solo per questo, perché mi sono concentrato più su una storia più di respiro italiano. Però chiaramente anche quello ha influenzato come il nostro immaginario. Invece l'altro opera era? No, è un'opera Juliette Greco. Juliette Greco, che è ovviamente c'è poco da fare. È lei. Quindi qui è così. Mi piacerebbe magari riattraversarlo, Belfagor, perché è una maschera molto bella, che ricorda un po' tutto, dei mammutoni, delle divinità caldee, per cui è una esteticamente meravigliosa. Scivolava. Sì, proprio. Scivolando verso l'alto. Sì, no, mi aveva influenzato quando c'era il metallo di Paracelso là dentro al Louvre, per cui è questa. L'introduzione di Igor, l'aveva scritto ai tempi, quando è uscita la prima versione, riletta e rivista l'aria aggiornata. Quindi possiamo confrontare anche le due. Ha fatto qualche limatura così, perché giustamente dopo parecchio tempo. Ma una virgola. Io vorrei pubblicare una cosa che consisterà solamente nelle differenze, quindi ci sarà un'introduzione con una virgola, un punto e quattro parole e poi tutti questi... questi elementi. Beh, io sono intervenuto sui puntini. Ai tempi usavo nei dialoghi un po' di puntini di sospensione. Nel corso degli anni usate sempre meno, adesso non ne uso praticamente più, per cui ho cominciato a eliminare e togliere, quindi proprio a togliere dei puntini, punto fa la differenza. Ecco, vedi, fa una grande differenza. Poi io, Pasquini, ho una domanda importante anche per Enrico Fornaroli, però magari prima facciamo le menzioni. Facciamo questa cosa qua. Non lo so, brava. Decidi tu. Sì. L'angolo della menzione. E incredibilmente il jingle funziona, perché invece tutti i coxo spaziale prima e dopo la pubblicità non sono andati. Allora, cosa succede? Martedì 9 luglio, che sarebbe domani, ahimè, Leonardo Santoli mi ha mandato questa menzione che non possiamo non dire, ovvero Velon, l'Italia al Tour de France. In occasione della prestigiosa corsa ciclistica è stata organizzata una mostra che raccoglie le cartoline, i quotidiani d'epoca, le fotografie e le illustrazioni di Leonardo Santoli, le poesie di Ezio Alessio Gensini e i bozzetti della graphic novel di Matteo Matteucci, per raccontare gli italiani vincitori della Grande Boucle, l'altro nome con cui è conosciuto il tour. All'apertura della mostra, che appunto domani alle 18 in sala borsa, ci sarà presente Matteo Lepore, Roberta Licalzi, Leonardo Santoli, Giovanni Battista Nencini, Niccolò Perrone, Massimiliano Canè, Mauro Ottavi. Modera l'incontro Giuliano Musi. Tutto questo è alla biblioteca Sala Borsa in Piazza del Nettuno 3 a Bologna. Voglio aggiungere le belle poesie di Ezio Alessio Gensini. Brava. Mercoledì 10 luglio 2024, dalle ore 17.30, visita guidata alla mostra Frontiera 40 condotta da Fabiola Raldi. Quindi c'è la possibilità di immergersi in un altro degli elementi karmici della nostra città. Visita guidata condotta dalla curatrice Fabiola Naldi alla mostra Frontiera 40 Italian Style Writing 1984-2024, un progetto espositivo che nasce dalla volontà di ricordare il 40° anniversario di Arte Frontiera. New York Graffiti, mostra ideata da un progetto di Francesca Linovi che si inaugurò nel 1984 alla Galleria Comunale d'Arte Moderna di Bologna. L'attività è gratuita con biglietto d'ingresso al museo e info e prenotazione obbligatoria scrivendo a mamboedu@comune.bologna.it. Attenzione, entro le 17 del martedì precedente, che sarebbe domani, quindi ascoltatori, chi è interessato, io vi consiglio di non perdere questo appuntamento live, che oserei definire live, entro domani va prenotato. Dopo il tutto sarà al Mambo Museo d'Arte Moderna di Bologna, via Don Minzoni 14. Poi invece giovedì ci sono un sacco di cose. Alle ore 19 abbiamo Mega 2 e Sonic Belligeranza che presentano MB Estate, mostra antologica di suoni dedicata al pioniere dell'industrial music Maurizio Bianchi. Dallo spazio a orari stabiliti si diffondono nel portico la musica di Bianchi. Il palinsesto con i giorni e gli orari degli oltre 60 dischi è disponibile sul sito a partire dal 10 luglio. Il progetto prosegue fino al 15 settembre. Questa è a Mega 2 in via Mascarella 16A a Bologna. Succede? Non c'era più. Però adesso ricè, e sempre giovedì 11 luglio dalle 19 alle 21 apre la collettiva Thorns a cura di Cory John Scozzari con... Ho detto bene? Come sono fatto in scienza? Non lo so. Ho pensato Scozzari, però poi ho pensato a Scozzari, a un altro Scozzari, perché siamo in tema di... Vabbè, comunque questa è una parentesi che, cioè, se si lamenterà sappiate che è per il contesto. Con Yabaia, Yuri Bizzotto, Bastien Gachet, Leanne Pichal e Perla Zuniga. Spero di aver letto tutto bene, però non sono proprio sicurissima. La mostra afferisce ad Astuni Public Studio, programma di mostre dedicato alle nuove tendenze dell'arte contemporanea, rivolto ad artisti under 40, alla Galleria Enrico Astuni in via Jacopo Barozzi 3 a Bologna. Sempre giovedì alle 19.30 invece abbiamo Romagna Tropicale, un dibattito condotto da Santa Bellezza e un aperitivo introdurranno la proiezione del film Romagna Tropicale, un documentario che identifica le motivazioni dell'alluvione del maggio 2023 in Romagna nella tipologia di sviluppo che il territorio ha messo in atto. fatto, un film che fa riflettere. La serata è parte del Festival Turbo, un festival di arti performative site specific prodotto e pensato da Serendipo con i residenti, gli studenti e le attività lavorative della strada. Tutto questo è al 5C Lab in vicolo De Facchini 5C a Bologna. Sempre giovedì 11 luglio, dove non avrete che l'imbarazzo della scelta, dalle ore 21:15, Pulse Percussion Duo, Mattia Grassi per Pierfrancesco Semeraro, in collaborazione con il Conservatorio Martini di Bologna. Un viaggio sonoro fatto di energia esplosiva che porta la musica per percussioni a esplorare un repertorio musicale amplissimo, dalla musica classica a quella popolare e contemporanea. Il concerto è parte della rassegna Attorno al Museo, promossa dall'Associazione dei Parenti delle Vittime della strage di Ustica, al Parco della Zucca, dunque in via Saliceto 3, di Saliceto 3. Ti è partito prima stavolta. 3/22. Prima non partiva, stavolta è partito per. Però, non è che si è può così, avere tutto. Non siamo proprio sincronizzatissimi. No, diciamo proprio no. Comunque l'ultima menzione invece è venerdì 12 luglio dalle ore 18:30. Abbiamo un laboratorio di fitoalimurgia. Interessante questa. Con Annalisa Malerman. È nuova questa. Il progetto del nuovo forno del pane, Outdoor Edition 2024, promuove anche quest'anno una serie di incontri nati dalla progettazione condivisa delle artiste e degli artisti ospitati nelle residenze diffuse nei 6 distretti culturali dell'area della città metropolitana di Bologna. Venerdì Annalisa Malerba, contadina e studiosa di fitoalimurgia, che non so cosa si... Secondo me non lo so, però si dice fitoalimurgia. Potrebbe però, essere fitoalimurgia, tu che me, sei una biologa. Ma non sono sicura, però va mi bene sembrerebbe comunque così. Accompagnerà il pubblico nell'esplorazione del regno vegetale, nella raccolta delle erbe spontanee e il loro utilizzo quotidiano ai fienili del Campiario a Gristana Morandi. L'ospite è stata invitata da Andrea Di Lorenzo, artista in residenza. La prenotazione è obbligatoria chiamando entro mercoledì allo 051 649 6611 negli orari di apertura del museo, che non si sa quali siano. Tutto questo è a Gristana Morandi, per cui se volete andate su www.coxospaziale.blogspot.com perché troverete il link a questo evento a Gristana Morandi. È una pratica antica di raccolte di erbe spontanee selvatiche. Bene. La fitoalimurgia. Ecco, grazie. Infatti siamo tutti qui concentrati, andati cercando immediatamente a vedere. Io devo dire questa cosa, visto che si parla di questa pratica, che non lo sapevo, ma imparo stasera che io sono una fitoalimurgista, perché ecco, vado a cercare dove cresce l'alloro, vado a rubare nei parchi l'alloro, la salvia, le erbe, diciamo. Giusto. Così, per scopi benefici miei di salute. In cucina. E quindi un giorno forse pubblicherò una pianta di dove si trovano in città tutte queste. Alla Lunetta Gamberini trovi il rosmarino, per esempio. Ecco, la salvia. Ma non me lo ricordo, forse anche la salvia. La difficoltà è trovarli in luoghi dove però non si, dove siano concimati con una certa attenzione e non dove non passa dal cane, cane da passeggio. No, visto che passava l'aereo e questo prima non suonava, adesso funziona, ho pensato di metterti il jingle, così vi ricordate che state ascoltando Coxo Spaziale, l'unica trasmissione che va in vacanza dopo tutti gli altri. E siamo qui con Enrico Fornaroli e Otto Grazie. Gabbos per parlare di fumetto e di fumettologia e fitoalimurgia. Esatto. Infatti e camminare alla ricerca di erbe spontanee mi sembra tutto molto coerente. Mi sembra un'ottima idea. Io avevo una domanda tecnica, facciamo un po' di così di non mi viene la parola, insegniamo qualcosa ai nostri ascoltatori che però sapranno rispondere forse anche loro. Ma la differenza tecnica tra... Io interrogo, brava. Interrogo. Metto le cuffie. Esatto. Direttore, ex direttore. La differenza tra fumetto e graphic novel. Qui la puntata 600 anche. Si apre un'altra parentesona. Difficile, ma si può cercare, si di, può trovare cercare una, di trovare una quadra. Allora, graphic novel è fumetto, in realtà il linguaggio è lo stesso, non è che cambia il tipo di linguaggio. Quello che cambia è sicuramente il contenuto delle storie e la forma delle storie. Cioè, se il fumetto, storicamente, diciamo, gli americani chiamavano comics, no? È legato soprattutto fino agli anni 60 e anche dopo, ma sostanzialmente le origini sono legate ai personaggi, le storie sono di personaggi, il personaggio va avanti anche per decine e decine di anni e si seguono le sue avventure. Il graphic novel invece dagli anni 60 in poi incomincia ad avere come soggetto del racconto qualcosa che è la storia che vogliamo raccontare, può essere una storia autobiografica, può essere la storia anche di un personaggio avventuroso, ma che non è più un personaggio seriale, è un personaggio che vive quell'avventura e noi la raccontiamo. Possono essere storie, ne cito un paio così tanto molto famose, una ballata del mare salato comunque è una grande graphic novel, anche se prima che venisse coniato il termine da Will Eisner, e Contratto con Dio, che sono storie di quartiere nel Bronx degli anni 30, sono appunto le storie autobiografiche di Will Eisner, che prima, negli anni 40 invece, è stato un grande maestro di fumetto di personaggi, perché The Spirit se l'è inventato e ha fatto un capolavoro del fumetto americano. E quindi, per esempio, Alan Ford è un fumetto, mentre Otto Gabbo forse scrive graphic novel. No, ma io faccio fumetti comunque. Esatto, perché poi il graphic novel. No, ma il discorso di fondo è che il graphic novel è praticamente il romanzo a fumetto, oppure un racconto lungo a fumetti, quindi è un modo che molte persone usano per affrancarsi dal fumetto, secondo me ha torto. Quindi, perché affrancarsi dal fumetto? Perché il fumetto è una parola che in certi ambienti è cheap. Quindi allora se dici un'altra cosa sembra, cioè, io notavo una cosa, cioè riflettevo su questa cosa, che molto spesso quando si parla di illustrazione, no? Il nome principale è quello dell'autore o dell'autrice dei testi, no? Succede un po' così, che chi disegna cade un po' in subordine, almeno in Italia. Mentre invece nel fumetto no, cioè secondo me ingiustamente, ma questo è un parere personale. Sono opinione che deve essere paritario, perché ad esempio in un albo illustrato le merito di entrambi, quindi non ci deve essere una figura ancillare, secondo me. Quindi, no, però nella percezione collettiva, secondo me questo problema è percezione sbagliata, è da correggere, sono d'accordissimo, sì, che è da correggere, però il fumetto o la graphic novel correggono, perché cioè tu sei autore sia dei testi che di tutto. Ma poi c'è un'altra cosa che bisogna, qua entriamo nel mondo nerd del fumetto, quando uno entriamoci. Uno scrive i testi, si fa anche i disegni, spesso viene definito come autore completo, quasi come chi disegna o scrive sia incompleto. Allora Otto Gabbo sei autore unico, il termine giusto sarebbe autore unico, basta, autorissimo. Non è che c'è uno che scrive i testi è incompleto, abbastanza. Ma invece quando ci sono le graphic novel senza testo, che differenza c'è tra una graphic novel c'è la famosa, in termini di sceneggiatura, tutto ciò si chiama scrittura invisibile. Ciò che si scrive, ma non avendo dei dialoghi, non è che non ci sia un testo, il testo c'è, però lo devi scrivere, lo devi realizzare, quindi viene chiamata la scrittura invisibile, altrimenti viene chiamato un silent book. E qua però stiamo a confinare con l'albo illustrato. Esatto, ma che differenza c'è tra un silent book e un libro d'artista? Qua ci vorrebbe il convegno, ci vorrebbe il convegno. E qui direi l'edizione dell'anno prossimo di tutta Radio Città Fucino sarà dedicata a questo. Una giornata intera. Aggiungo una piccola cosa, collegandomi a quello che dicevi prima, gioco. Ti stavo chiedendo di fare. Di Andrea Pazienza. Ecco. Il tema è anche come si pubblicavano le storie a fumetti, che poi d'autore, perché Andrea Pazienza non possiamo che non considerarlo tale, ma la differenza che ovviamente è scomparsa nel corso degli anni, anche se per esempio I Camminatori, non si ricordava, è uscita per la prima volta su rivista. Ecco, il fatto che non ci siano più, o siano rimaste, voglio dire, residuali, c'è ancora Linus, c'è uscita Alter Linus, ma sono poche ormai, no? Il formato rivista non esiste più nella produzione editoriale, che ovviamente proponeva un modo diverso di raccontare le storie, no? Perché uno doveva o comunque trovare il modo di suddividerli in episodi, perché non si potevano leggere storie di 140 pagine, oppure, ed era altrettanto interessante, avere delle micro storie che però erano straordinariamente concentrate. Appunto, credo che Giorno funziona perché è di una decina di pagine, se fossero state 160 pagine di graphic novel sarebbero state forse avrebbe perso un po' di mordente. Assolutamente. Ma invece nei camminatori, adesso voglio sapere se puoi rivelare questa cosa giusto per per l'ascoltatore di radio di Coxo Spaziale, il professore che apre la storia, quello che tiene la lezione super turbante è uno che esiste? Ma allora, mi sono ispirato come sapere a Faeti di sicuro, quindi il corso che fa il mio professor Raimondi non esiste, però devo dire che ha delle affinità con i corsi che faceva Faeti all'università. E allora è stato un po' un omaggio, non dichiarato, ma un maestro. Poi lo stesso personaggio è diventato il protagonista di un altro libro, il professore, lui da giovane. Ah, che bellissimo, allora segniamo anche questo si titolo. Si chiama Love in the Alien, è uno spin-off e lui è un ragazzino amante dei fumetti, super nerd. Raccontava una cosa buffissima che è successa in gioventù. C'è stato a un certo punto, quando ero verso le medie, sempre lo stesso periodo. Alle medie succedono tante di tutto. Cose. C'era stata questa psicosi degli UFO. Erano gli anni in cui uscivano i libri di Peter Colosimo, Terra Incognita. E allora c'era la psicosi degli UFO, tutti guardavano le stelle che c'erano gli avvistamenti. A un certo punto c'era un quotidiano a Cagliari che adesso non c'è più. E aveva dato la parola a questo signor che si chiamava Antonio De Rosa, si definiva contattista. I contattisti sono coloro i quali, tipo Adamski, celebre negli anni 50, che avevano contatti con gli alieni. E costui allora è venuto lì a Cagliari dicendo che i venusiani sarebbero sbarcati. Quelli di Actarus. Erano belli, ha fatto la descrizione, questi venusiani erano altissimi, coi capelli bianchi, lunghi, argento. Quelli di Capitan Harlock, erano una meraviglia, avevano sbarcare appunto nella spiaggia di Nora, è un sito archeologico dei tempi dei Romani, dove d'estate facevano anche delle bellissime rassegne teatrali, proprio là. Nei resti, quindi c'era grande aspettativa, ogni giorno un'intervista su questo signor De Rosa, riusciranno a ridare la vista ai ciechi, c'era già queste fedi taumaturgici, certo. E miracolosi. Ma allora la favola, costui viene beccato in aeroporto che sta fuggendo senza aver pagato il conto dell'albergo, aveva ordinato chilometri di cavi elettrici che doveva illuminare a giorno tutta la zona lì, e mi è rimasto impresso. E allora ho ambientato la storia proprio in quei giorni lì che si mischiavano con i giorni dell'austerity. I più bacuchi si ricorderanno che in seguito alla crisi petrolifera, prima anni 70, di domenica non si poteva circolare con le auto, quindi la vigilia a piedi o in bici, prima delle talghe alterne. Quindi la storia verte attorno a questi due macro eventi, lo sbarco degli alieni e l'austerity. E quindi il professore da giovane poi diventa grande, diventa un po' protagonista. Aggiungo un altro elemento a questo punto di noi boomer: la serie UFO con il comandante Stryker, certo. E le animazioni di Cognito Anderson, che sono stati, come dire, l'idea, no, che ci fosse un disco volante che prima o poi potesse entrare nell'atmosfera, arrivasse anche nel cortile di casa nostra, era ovviamente auspicato anche in certo assolutamente senso. Io ci spero ancora, però infatti no, in effetti non siete soli, siamo in tanti, tutti non siamo soli, tutti speriamo. E quindi il professor Raimondi è un po' incarna questa figura di persone, di studiosi che sono andati a studiare e parlare di cose che altrimenti nessuno avrebbe mai parlato, come letteratura per l'infanzia, letteratura fantastica o il weird, come si può dire adesso, quindi il fumetto, quindi l'albo illustrato, quindi un po' tutto. Adesso che la comunicazione appunto è così veloce, i fumettisti si mettono su Instagram e fanno le stories da dieci tavole, perché in effetti stavo pensando che non è facile promuovere un fumetto adesso con i social così veloci. Perché nel fumetto c'è tanto da leggere e non legge più nessuno, me compreso, infatti tu non leggi nemmeno i fumetti. Io non leggo nemmeno i fumetti, ma ho guardato la copertina dei camminatori ed ero già stanco, stremato. Ero già stremato perché ci sono i lacci, bisogna perdersi nei particolari, esatto. Diciamo che sicuramente i webtoons, o comunque diciamo i nuovi canali social di non solo di promozione del lavoro del singolo, della singola autrice, ma anche le produzioni che vengono proposte, sono forse quella forma nuova di storia breve, perché ovviamente, cioè, non, come dire, la lettura in rete anche su Instagram non ti permette, no, di stare attaccato a decine e decine di pagine. Devo dire che uno degli autori che è stato, ho letto di recente, che è Pettinger, che è questo autore americano che fa Goiter, le ha pubblicate tutte prima le storie, sono storie brevi in rete, e poi adesso hanno anche la versione cartacea. Però è interessante perché effettivamente, diciamo, tutto quello che è online riporta quella sorta di concentrazione di brevità che una volta era tipica, appunto, delle riviste. No, mi è venuto in mente questo libro fatto da post di Facebook di, non mi ricordo più, di Angelo Pretolani, che aveva, però ci sono un po' di scrittori che postano brevemente su Facebook, vabbè che Facebook ormai è veramente da boomer, Facebook anche quello. Beh, Matteo Bussola ha iniziato a scrivere i suoi primi romanzi con dei post su Facebook che parlava appunto della famiglia, delle figlie, del quotidiano, poi li ha assemblati, è uscito il primo libro, poi è iniziata la sua carriera. Comunque è comodo perché sta tutto lì ed è più facile. Certo. Non dimenticarselo, abbiamo finito il tempo. Anzi, no, me lo fate fare una menzione. Ma sì, perché tanto noi potevamo andare avanti per un'altra mezz'ora, hai detto, quindi. Sì, certo. Ma me la fate fare una menzione d'onore col jingle. Una menzione d'onore col jingle. Col jingle. Che jingle vuoi? Quello che c'era prima, dimmi, quello che era molto carino. Che, visto che parliamo lo stacco di batteria. Lo stacchettino. Quello dell'angolo della menzione. L'angolo della menzione, quello da. Eccolo qua. Vai. Allora, già che ci siamo, stiamo parlando di fumetti e di eventi. Domani alle ore 19 all'SR ci sono di nuovo io, ma non come autore. Ce lo dici così? Ve lo dico così: non come autore, ma come interlocutore, perché devo parlare con Marco Nizzoli, grande autore, nel suo ultimo libro, Fiori di notte, scritto da Giovanna Furio e pubblicato in Italia da Oblomov. È un libro bello, ambientato negli anni 30 fra Venezia e Berlino, appunto parla di leggi razziali, amicizia e quant'altro, e sarò ben lieto di interloquire con Marco domani alle SR, ore 19. Alle ore 19 alle SR dei Giardini. Vuole Margherita menzionare qualcosa anche? No, semplicemente ricordare per chiudere che Oblomov è la casa editrice di Igor, col quale abbiamo aperto l'introduzione. E che camminatori. Gli saranno fischiate le orecchie stasera, perché è a Tokyo, ma però secondo me c'è il fuso orario. Con jet lag domani gli fischieranno le orecchie, o forse gli fischiavano ieri. Con il jet lag. Ieri gli sono fischiate le orecchie, adesso sa perché. Esatto. È come il tuo ombrello che hai perso prima ancora di averlo portato in radio. Comunque ricordati l'ombrello. E molto bene, no? Io vi ringrazio tantissimo, Otto Gabos e Enrico Fornaroli. Ringrazio anche Chiara Pergola, senza la quale oggi non sarei riuscito a fare questa trasmissione, avendo letto appunto una riga dei Camminatori. L'unica puntata di 497 che mi sono preparata, sappiatelo, ma io ero così emozionata che ho portato anche dei regalini per gli ospiti. Ne ho portato uno anche per te. Addirittura. Solo per non farti sfigurare. Wow, che carina. Molto bene. Io ero Mia da Schio su Piei, come al solito. E io ero Pergola Chiara. Molto bene. E salutiamo era Stefano Cox... W. Pasquini, che è in maternità. Che è in maternità, esatto. Sì. Questo era Cox Ciao Spaziale. Stefano. E come dicevamo, ci saremo di nuovo lunedì prossimo. Per a cui pare. Al solito possiamo finire la puntata con le parole del nostro direttore che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. against me, my body is a flower, my blood simulating ecstasy. Oh, swirl around and let go. Against me, my body is a flower, my blood simulating ecstasy. Oh, swirl around and let go. So sad.